cappio intorno al collo, impicca l'assassino, paga il boia, pagalo, per uccidere un uomo. Tutti siamo uguali nella tavica illusione, tutti ugualmente niente, vinti dall'alienazione, ma ricorda, sai chi è più uguale di te? Rudoniano esule della guerra di Spagna, bella l'ideologia ma con le idee non si comanda. Il pacifismo è morto quando è nato il primo uomo, picchia forte l'asino, poi picchialo di nuovo se potesse. Lui lo farebbe a te. Mangi, preghi ed ami, perché lo fanno gli altri, e porgi l'altra guancia a chi continua a maltrattarti, sia esso Ra o Krishna o quello epicureo. Sgozza l'agnello e mangialo, che simboleggia Dio, è un animale. Non ha l'anima che hai te. Vendevi le tue auto per acquistare quadri, ma il mondo si ribalta, profeta Majakovski. Tutto alla fine cessa, anche la nostra stessa vita, che poi a pensarci bene non è mai manco esistita. E non sbuffare, lo sai benissimo anche te.